Salva Danaio di Deborah Rosciani. Argentina fu clara. L'Argentina è sempre stata chiara nei confronti di tutti, in particolare dei piccoli risparmiatori, italiani soprattutto. Questa è una buona opportunità ed è l'ultima. Bisogna approfittarne. L'offerta sta avendo un ottimo riscontro. Siamo molto ottimisti per quanto riguarda il livello di adesioni. Non abbiamo mai pensato di non centrare l'obiettivo, anzi, siamo convinti che lo raggiungeremo. Agli investitori italiani dico di analizzare attentamente le alternative. Da un lato ci sono i 10 anni in cui non hanno ricevuto nulla dal paese e le promesse di conseguire qualcosa da parte del tribunale arbitrale, canti di sirena. Dall'altro lato, hanno l'opportunità di ottenere un titolo commercializzabile, un effettivo rimborso periodico da parte dell'Argentina. Ritengo sia una buona opportunità, nonché, ripeto, l'ultima. Non estenderemo l'offerta nel tempo, né ci sarà un'offerta migliore. Né che pueda haber possibilidad de otra oferta mejor. Si è concluso ieri, buongiorno, da Deborah Rosciani con un ultimo incontro con le associazioni dei consumatori, il terzo roadshow italiano del governo argentino per presentare la seconda offerta di scambio sui Tango Bond. La delegazione era guidata dal segretario delle finanze Hernán Lorenzino, di cui vi abbiamo proposto, lo avete sentito attaccato alla nostra sigla, un brano dell'intervista che abbiamo realizzato ieri. Lorenzino è stato ospite degli studi di Radio 24 e poi ascolteremo il resto delle dichiarazioni che ci ha rilasciato. Io mi rendo conto che per molti ascoltatori è un tema noioso, abbiamo affrontato tantissime volte, poco interessante per molti, ma per quasi 200.000 famiglie italiane è ancora una battaglia che in certi casi è diventata ragione di vita. Di fatto, all'inizio di maggio, l'Argentina ha fatto una nuova proposta ai risparmiatori italiani, internazionali, ma sono soprattutto gli italiani quelli interessati, a chi ha i vecchi Tango Bond, in Italia obbligazioni per circa 4 miliardi di euro, li scambi con i nostri nuovi titoli e quindi, come nel 2005, tutti si sono messi a studiare l'opportunità economica, la convenienza finanziaria di questo scambio. L'offerta dura fino al 22 giugno, la settimana prossima dunque sapremo come è andata. Noi stamattina ritorniamo sull'argomento per farvi ascoltare le dichiarazioni di Lorenzino, che sono un po' anche quelle che sono state già riprodotte dalla stampa in questi giorni, perché questa delegazione è stata a Milano 2 giorni, noi l'abbiamo sentito appunto ieri. E ritorniamo sull'argomento, dicevo, perché vorremmo aiutare soprattutto a chi non ha ancora fatto nessuna scelta e non sa che fare di queste ultime ore a disposizione, visto che praticamente tra lunedì e martedì dovrà consegnare la sua decisione o meno alla banca, all'intermediario finanziario, quindi spiegare anche la dinamica del funzionamento dei nuovi titoli. Vi faremo ascoltare l'intervista a Lorenzino e insomma l'idea è di farvi fare una scelta consapevole, sia che si aderisca a questa nuova offerta di scambio, sia che si dica no perché si vuole andare avanti con altre azioni, l'azione legale alla banca, comunque l'adesione all'offerta di scambio non la pregiudica, sia che si voglia continuare a dar battaglia con la task force argentina che invece porta avanti il suo ricorso al tribunale appunto ICSI, da questa istituzione internazionale di Washington. Ad aiutarci questa mattina, ad orientarci per l'ennesima volta in questo terreno che per molti è sicuramente complicato, l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento Consumatori, che saluto e ringrazio di nuovo. Avvocato, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno. Adesso al cellulare, poi so che riuscirà a raggiungere i suoi studi appunto di Torino, e ringrazio per essere ritornato da noi. Ci aveva aiutato moltissimo, per la verità, nell'epoca della prima offerta di scambio del governo argentino. Lo abbiamo lasciato un po' riposare, adesso invece lo abbiamo richiamato questa mattina. Francesca Vallone, vicepresidente di Federconsumatori, fra le associazioni dei consumatori che ieri hanno incontrato Lorenzino. A Vallone, bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre considerazioni. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Non vi sto neanche a dire gli irriducibili della questione, cioè coloro che non intendono assolutamente aderire a questa seconda offerta del governo di Buenos Aires. Me l'ho già riscritto questa mattina, io ho un'articolata mail di un'affezionatissima ascoltatrice di Salva Danaio, che è Rosanna Savian, che tra l'altro appartiene al comitato COBRA, il comitato Hold Out Bond Repubblica Argentina. che sono appunto coloro che non hanno nessuna intenzione di stare ad ascoltare questa nuova proposta. Ci sta, tra l'altro, mi ha scritto questa mattina una lunga mail, poi magari la sottopongo anche all'attenzione di Fiorio e Davallone, secondo la quale, questo tra l'altro è un punto che ho anche toccato ieri con Lorenzino, poi vi farò sentire questa parte dell'intervista, se le adesioni non raggiungeranno il tasso prefissato dal governo, che è una soglia del 60%, l'Argentina ha detto non ci interessa, noi comunque un'altra proposta non la faremo. È l'ultima che il governo di Buenos Aires fa, poi non ha più intenzione di ritornare sull'argomento. E pare che in Argentina, invece, secondo quanto stanno raccontando anche alcuni autorevoli giornali, il cronista Clarín, il cambio potrebbe anche essere riaperto in futuro se le adesioni appunto internazionali non avranno il tasso prefissato. E questa sarebbe stata, tra l'altro, anche un'ipotesi presa in considerazione a Buenos Aires da Lorenzino, mentre in Italia dice il contrario. Non lo so, adesso io questi sono ovviamente commenti di giornale, e vedremo, insomma, di commentare anche questa circostanza. In ogni caso ribadisco, poi al di là di quello che dicono i giornali argentini o di quello che dicono quelli italiani o di altri paesi, quello che ci interessa è stamattina ribadire un po' le caratteristiche del funzionamento del nuovo scambio e fare in modo che chi farà una scelta, se non è già stata fatta, perché ormai, come dire, l'offerta di scambio è agli sgoccioli, la faccia nella piena consapevolezza. Rapidamente vi racconto la borsa cosa fa questa mattina, poi andiamo subito al tema argentino. Adesso c'è di nuovo il segno meno su tutte le piazze finanziarie. Erano partite un po' meglio: meno 0,4 Parigi, meno 0,3 Francoforte, Londra più 0,15, Milano meno 0,23%. A dispetto della possibile tassa sulle banche per risanare i bilanci pubblici, il quadro dei titoli bancari è positivo ovunque, trainato soprattutto dai titoli francesi, ma anche a Milano vanno molto bene: Monte dei Paschi più 1,93, Popolare di Milano più 1,61, Intesa più 0,98, Mediobanca più 0,7, Banco Popolare più 0,6, miglior titolo è Unipol, che ha definito i termini dell'aumento di capitale, più 2,54% per il gruppo, un aumento di capitale da 500 milioni di euro che prevede l'emissione di 634 milioni di azioni ad un prezzo di 44 centesimi e mezzo di euro. Direi di lasciare subito la borsa, andiamo immediatamente al tema di questa mattina. Potremmo anche sentire già gli altri brani, Filippo, dell'intervento di Lorenzino, e poi comincio la mia chiacchierata con Avallone e Fiorio, del segretario alle finanze appunto del governo di Buenos Aires, al quale abbiamo chiesto anche un chiarimento a proposito di questa proroga dell'offerta di scambio del governo, prima fissata al 7 giugno, ma siccome effettivamente i tempi per far fare una scelta consapevole ai risparmiatori erano strettissimi, perché l'offerta è partita all'inizio di maggio, le banche hanno chiesto ai sottoscrittori e potenziali sottoscrittori di consegnare la documentazione a fine maggio, allora in sostanza le banche si sono un po' anche sollevate in Italia, hanno detto vabbè, adesso va bene tutto, ma dateci almeno il tempo di anche il tempo tecnico di raccogliere la documentazione. Quindi in sostanza c'è stata questa proroga al 22 giugno. Ma io ho chiesto a Lorenzino, siamo sicuri che sia stata una richiesta delle banche italiane, oppure avete avuto la sensazione che il ritmo delle adesioni da parte degli italiani fosse basso e quindi avete scelto voi di prorogare al 22 giugno? Sentiamo che cosa ci ha risposto. L'offerta ha avuto una prima tappa pensata esclusivamente per gli investitori istituzionali, che ha avuto un riscontro molto elevato. Poi abbiamo iniziato la tappa per i piccoli investitori e a un certo punto la Consob e l'ABI ci hanno richiesto di estendere il periodo di offerta a causa delle consistenti richieste e del conseguente lavoro da parte delle banche. Dal momento che l'Argentina vuole risolvere il problema e che l'Italia da questo punto di vista è per noi fondamentale per voltare la pagina del default e avere un rapporto normale con gli investitori internazionali, abbiamo deciso di accettare ed estendere il periodo di offerta affinché tutti potessero partecipare. Per questo l'attendiamo fino al 22 giugno. E allora, in sostanza, un'operazione totale all'insegna della trasparenza. Avallone, io comincio con lei, perché so che lei è stato tra coloro che hanno incontrato Lorenzino in questa sua nuova tappa milanese, la terza nel corso di questo roadshow. Insomma, stanno facendo di tutto per convincere gli italiani a salire su questo, quello che definiscono l'ultimo carro possibile. Che impressione ha avuto? Come stanno procedendo le adesioni? Tra l'altro volevo rispondere anche all'ascoltatore che ci chiede, si sa quanti hanno aderito all'offerta di scambio scaduta del 7 giugno, non scade il 22 giugno perché i termini sono stati prorogati. Qual è il ritmo delle adesioni secondo voi a Vallone? È la stessa domanda che ci ha fatto Fiorentino, ma noi non siamo in grado, sono le banche più che altro, perché noi possiamo sapere le nostre assemblee che abbiamo fatto in giro per l'Italia, ma c'era molto sconcerto. Questi incontri con i rappresentanti dell'Argentina sono sempre un po' paradossali, perché vengono e hanno già deciso tutto, naturalmente, hanno addirittura una legge. Sì, hanno un atteggiamento molto sicuro di sé, effettivamente. Ecco, quindi diciamo gli incontri sono quasi, non lo so, di cortesia più che di confronto, però loro hanno questa posizione. Noi non sappiamo bene i dati, però in questo momento siamo veramente in una situazione diversa dal 2005. Ormai credo che tutti quelli che potevano rivendicare qualcosa nei confronti delle banche o l'hanno fatto, lo stanno per fare, quindi abbiamo una fetta di persone che si stanno sicuramente rivolgendo in altre possibilità. Oggi certamente l'OPS non credo che si possa ipotizzare un futuro di trattative. Queste notizie che arrivano dall'Argentina sono certamente non controllabili, non possiamo sapere che fondamento di verità hanno. Anche da parte del TF Argentina c'è anche la possibilità di sapere entro il 14 se c'è l'ipotesi di accoglibilità o no dell'avvertenza, perché c'è stata la morte del presidente dell'ICSID, quindi ha avuto un ritardo enorme. Questo nel 2005 non lo potevamo assolutamente ipotizzare. Quindi siamo in una situazione molto più delicata. Noi come sempre lasciamo ampia scelta ai nostri, però dobbiamo dire le cose come stanno, quindi è chiaro che questa è una situazione ben diversa dal 2005. Nel 2005 eravamo forse un po' più speranzosi di un'attività forte, anche il Fondo Monetario Internazionale era stato critico in questa proposta, tra l'altro veniva considerata un precedente molto grave, perché molti paesi si indebitano nei confronti di risparmiatori a livello mondiale. Questa è una proposta unica in tutta la storia degli indebitamenti dei paesi. Pensiamo a qualche paese che oggi ha qualche difficoltà, forse giusto perché sta nell'euro, la Grecia non si può permettere un'operazione del genere. L'Argentina, naturalmente, non facendo parte di zone controllate, è chiaro che si è potuta permettere questa situazione. Quindi quando vengono hanno sempre questo atteggiamento di buon padre di famiglia, dicendo ma quello che possiamo dare. Beh, le condizioni argentine sono cambiate profondamente, qualche sforzo in più, qualche piccolo sforzo in più si poteva fare. Di fatto c'è stata anche una grande discussione a proposito del fatto che c'è una legge in Argentina che non permetteva di riaprire i termini dello scambio. Ha fatto bene anche a Vallone, poi da questa considerazione parto nella seconda parte, di Salvadanaia, a sollevare il tema del noi lasciamo ampia libertà anche agli aderenti alla nostra associazione dei consumatori di fare come meglio credono del loro investimento, perché anche qui c'è stata un po' di titubanza a proposito comunque di osservazione attenta rispetto all'atteggiamento dell'associazione dei consumatori, che 5 anni fa erano abbastanza chiare sulla considerazione inaccettabile delle condizioni di scambio di allora, ed oggi invece sembrano un po' più orientate a sostenere i consumatori nell'accettazione di questa nuova offerta. Adesso non è così esplicito l'atteggiamento di nessuno, perché con i soldi degli altri non si può dire chiaramente che strada devono prendere i risparmiatori. Detto questo, sono passati anche 5 anni, a Vallone lo diceva, sono cambiate molte cose e forse davvero questa è l'ultima spiaggia per molte famiglie, se non altro se sono, come dire, emotivamente devastate da questa situazione. Salvadanaio, siamo ritornati sulla questione dei Tango Bond, perché c'è tempo fino a martedì prossimo, per chi volesse farlo, di aderire alla seconda offerta di scambio che è stata proposta dal governo argentino, condizioni simili a quelle del 2005 quando fu lanciata la prima offerta, per qualcuno ancora più penalizzante, ma in sostanza, insomma, si devono fare complicati più o meno ragionamenti. ragionamenti di natura economica per capire se vale la pena chiudere questa partita una volta per tutte oppure andare avanti magari contestualmente con un'azione legale contro la banca presso la quale si è sottoscritto questo investimento, oppure ad continuare a fare la battaglia con la TFA argentina guidata da Nicola Stock, che questa mattina per una serie di questioni personali non è potuto essere con noi, ma noi lo salutiamo perché comunque è stato spesso ospite di Salvadanaio. E allora alcuni ascoltatori, poi vado all'avvocato Fiorio, Movimento Consumatori. Sergio da Cremona, buongiorno. Buongiorno a lei, signorina. Ci dica tutto, Sergio. No, volevo dare solo la mia esperienza. Sì. Io ho aderito alla seconda offerta dell'Argentina perché penso proprio che non ci sia più niente da fare. Avevo già aderito a Stock, ma ultimamente, dopo l'ultima offerta, ho declinato perché penso che l'Argentina non possa dare più di quello che ha offerto, ecco, anche perché bisognerebbe mettere in discussione la prima offerta, e quindi io ho aderito. Era solo la mia esperienza. Scusi Sergio, no, tra l'altro lei ha fatto anche una precisazione importante: prima aveva aderito alla TFA, quindi alla iniziativa della Task Force Argentina, il ricorso presso il Tribunale di Washington, presso l'ICSID. In banca le hanno fatto sottoscrivere il documento. Ha fatto sottoscrivere un sacco di documenti, adesso a dire la verità io non so, comunque penso che la banca non mi abbia imbrogliato. Ecco. No, Sergio, ci mancherebbe altro che volessi sollevare una questione del genere, nel senso che per chi aderisce all'offerta pubblica di scambio deve però rinunciare a proseguire il suo cammino con la TFA. Volevo capire se questo era stato chiaro, sì, come ma discorso ma da parte della macchina. L'hanno detto me l'hanno detto espressamente, insomma, che io rinunciavo e mi hanno detto lei vuole rinunciare. Sì, ho detto voglio rinunciare perché, e quindi ho aderito a quello del 2038, anche se a 73 anni non penso di arrivarci. No, ci mancherebbe, Sergio, noi le auguriamo di campare fino a 100 anni, di non tornare anzi fra 20 anni a ricominciare a parlare di questa questione, e comunque no, l'importante è che lei abbia fatto una scelta totalmente consapevole, questa storia la vuole chiudere, però benissimo. Avvocato Fiorio, vengo a lei, che si è seduto tranquillamente nel suo ufficio, immagino dopo tutta la mattinata in giro, quindi l'ho fatta anche sbrigare, spero di non essere stata troppo maleducata con lei. È un dilemma che ancora pervade molti, immagino magari qualcuno davvero sta aspettando gli ultimi minuti prima di portare la documentazione in banca oppure prima di decidere di rimanere a casa. Un tema importante, però affrontiamolo perché l'abbiamo sollevato nell'altra puntata, quella dell'8 giugno, forse generando anche un pochino di confusione, ma ribadiamolo: chi comunque fa l'adesione all'offerta pubblica di scambio non è detto che poi possa comunque avviare l'azione legale nei confronti della banca, anche se in realtà tutti quelli che magari in questi anni hanno scoperto di averne diritto perché la sottoscrizione non era stata fatta consapevolmente, perché c'erano dei vizi di forma nel contratto sottoscritto con la banca eccetera, forse coloro che ne avevano diritto ormai sono stati tutti quanti chiariti questi rapporti con le banche, ci sono delle sentenze in sostanza, non lo so. In ogni caso l'adesione all'offerta di scambio non pregiudica un'eventuale azione, questo lo ribadiamo ancora una volta. Sì, questo deve essere chiarissimo, cioè la differenza tra l'adesione e la non adesione è questa: chi non aderisce e ha naturalmente aderito all'arbitrato ICSID non può fare nessuna azione contro le banche, chi invece aderisce all'offerta pubblica di scambio revoca implicitamente l'adesione, qualora l'abbia manifestata, all'arbitrato ICSID e può fare l'azione contro le banche. Allora, l'azione contro le banche non è, secondo me ce ne sono state tante in questi anni, però oggettivamente su 450.000 investitori italiani che hanno investito in obbligazioni argentine, io penso che sia una piccolissima percentuale quella dei soggetti che hanno avviato un'azione contro la propria banca. Allora, l'azione contro la banca non è un'assicurazione, questo io non mi stancherò mai di ripeterlo, però allo stesso tempo ci sono veramente, siccome le banche in passato operavano in maniera diciamo leggera, ci sono veramente un sacco di situazioni nelle quali l'investitore magari senza saperlo ha diritto ad ottenere un risarcimento. E faccio un esempio su una questione molto formale ma che riguarda veramente la posizione probabilmente del 70 o dell'80% degli investitori. una serie di tribunali italiani, ma sparsi in tutta la penisola, e direi che oggi l'orientamento assolutamente prevalente, prevede che il contratto quadro di investimento debba essere firmato non solo dall'investitore ma anche dalla banca. Ecco, io nella mia esperienza, nella quale come Movimento Consumatori e io come professionista ho seguito decine e decine, centinaia di cause in bond argentini, devo dire che è veramente una situazione più unica che rara che il contratto sia firmato dalla banca. Dalla banca. Naturalmente è un profilo molto formale, poi ci sono i profili sostanziali, però la considerazione che oggi da fare è questa, cioè aderire all'offerta di scambio consente comunque di ottenere dei titoli che hanno un valore, quelli vecchi non avranno alcun valore, e consente comunque la possibilità, qualora se ne abbiano l'intenzione, le possibilità, di avviare l'azione per recuperare quanto investito. Il resto, quello che non si riesce ad ottenere appunto con il titolo scambiato. Peraltro, allora guarda Filippo, prepariamo il terzo contributo di Lorenzino. Proprio a questo proposito, per chi aderisce all'offerta di scambio, da agosto cominceranno ad essere pagati in contanti gli interessi. Sentiamo allora, ci ha spiegato appunto come avverrà questo pagamento lo stesso segretario alle finanze argentino, Hernán Lorenzino, ieri a Radio 24. Gli investitori che partecipano a questa offerta avranno in mano un titolo scambiabile sul mercato, un titolo del quale potranno monitorare il valore in borsa, in Italia, Lussemburgo, negli Stati Uniti e in Argentina. Un titolo che esiste, che paga interessi. Inoltre riceveranno immediatamente un rimborso degli interessi dei bond relativi al periodo 2005-2010. È un altro strumento che è difficile da spiegare. Io lo faccio così. È una sorta di azione, come se avessero l'azione di un'azienda, che in questo caso è l'Argentina. Titoli che si associano alla buona performance che può avere il paese. Viste le buone prospettive dell'economia del paese, significa avere in mano un titolo che di sicuro il prossimo anno pagherà, e pagherà bene. De sicuro l'anno entrante va a iniziare a pagare e che paga molto bene. Allora, Francesco Avallone, Federconsumatori, le leggo intanto anche un sms di un ascoltatore che dice: nel 2006 avevo aderito all'offerta dei famosi bond, quindi la prima offerta di scambio, poi ho fatto l'azione legale con la banca, ho recuperato circa l'80% del capitale, non sono arrivata alla causa legale, tutto questo grazie all'informazione ai giornali, ho provato e è andata bene, ma probabilmente il suo investimento aveva presupposti anche tali per poter arrivare a questo successo. Il percorso stragiudiziale che voi suggerite e supportate per molti consumatori, come funziona? Intanto volevo precisare che chi ha aderito all'ICSID può fare una lettera semplice e rinunciare all'ICSID e può far causa, quindi il fatto che c'è questo obbligo noi l'abbiamo contestato, e l'ICSID ha messo, cioè la Task Force Argentina ha messo una clausola che si può rinunciare in qualsiasi momento, quindi chiunque... Sì, però poi non si può andare avanti con l'ICSID, ovviamente. Certamente. A prescindere dai risultati, quando arriveranno e quando ci saranno, comunque, a parte questo. Ecco. Per dire, se qualcuno casomai non aderisce e sta ancora all'ICSID, però se vuol far causa può fare una lettera di rinuncia. Detto questo, noi tra l'altro con le grandi banche ormai abbiamo un'abitudine di conciliazioni paritetiche, l'abbiamo fatto con Banca Intesa, Parmalat, Cirio. È chiaro che chi è abituato ormai a confrontarsi stragiudizialmente si guardano i fatti, si guardano le 4-5 argomenti al di là addirittura dei documenti, ma insomma la capacità di capire da parte dell'investitore di che cosa stava comprando nel 2001, nel 2000, quindi diciamo che si è andati molto oltre addirittura nel guardare effettivamente sostanzialmente la tipologia dell'investitore, quindi devo dire che su questo terreno, soprattutto ripeto con le grandi banche, abbiamo fatto passi molto avanti. Quindi si fa un reclamo classico, la banca riguarda, noi chiediamo sempre l'accesso alla documentazione, anche il problema delle firme, di altro, noi dobbiamo essere sempre sicuri che la documentazione che abbiamo noi è la stessa che ha la banca, perché poter confrontare naturalmente tutti i vari passaggi del processo di compravendita. Certo, quindi sia inattaccabile dal punto di vista della forma. Ecco. Certo, noi la prima cosa che chiediamo è l'accesso alla documentazione, prima di fare una qualsiasi azione noi vogliamo essere certi che quella è la documentazione che è stata firmata e che quindi è in atto. Dopodiché la banca, se si accorge che c'è qualcosa che non va, sono loro stessi che spingono a chiudere dopo le sentenze, dopo, dopo tutta una serie di giurisprudenza consolidata, certamente nessuna banca è folle di andare per forza a giudizio quando si accorge che nella documentazione manca qualche elemento determinante per un giudizio positivo o negativo della transazione. Quindi ritengo che i numeri sono molto alti. I 180.000 che avevano aderito, molti hanno rinunciato, molti hanno fatto le cause. Devo dire che la trattativa si è valsa di una valutazione dell'OPS del 2005, perché naturalmente anche chi non ha aderito a quella dell'OPS si parte da un concetto che esiste un OPS e da oggi in poi si valuterà la parte che diciamo che è già in possesso del risparmiatore, e quindi si tratta di discutere della parte mancante. Quindi se vale il 30%, naturalmente si discute sul 70%. Mediamente si ottiene il 90% di quella percentuale. Che insomma, rispetto a come erano messe le cose qualche anno fa, è un risultato di tutto rispetto. Allora, vorrei precisare, non è che noi stiamo organizzando questa trasmissione per portare acqua al mulino dell'Argentina e per convincere le persone che non hanno ancora preso nessuna decisione a fare questa sottoscrizione dell'offerta di scambio del governo. Ci mancherebbe altro che ci mettessimo a fare sollecitazione all'investimento. No, noi vorremmo solamente richiarire un po' i termini di come stanno le cose adesso, che sono molto diverse da 5 anni fa, e ovviamente guardo con tutto il rispetto del mondo agli amici che invece non aderiranno a questa seconda offerta, perché hanno intenzione di continuare percorsi diversi. E nella fattispecie, appunto, risaluto il comitato Cobra, che manifesterà di nuovo a Roma lunedì davanti alla ambasciata argentina. Peraltro a Vallone c'è un messaggio per lei, perché la vorrebbero anche in questa manifestazione. Poi magari vi metto in contatto, e quindi così gliel'ho detto perché avevano piacere che lei lo sapesse. Pochissimi minuti di tempo, un paio di telefonate, poi le considerazioni con l'avvocato Fiorio. Bruno da Genova, rapidissimo se ce la fa, buongiorno. Ah, buongiorno, volevo solamente dare la mia testimonianza. Io nel 2000 acquistai questi bond spazzatura e riuscì a maturare la cedola del 2001, dopodiché entrai nel default. Sì. Ritenevo che la banca avesse le sue responsabilità, e quindi le mie proposte alla banca furono rifiutate. In conseguenza io vendetti i bond argentini sul mercato secondario, dopodiché promossi azione legale nei confronti della banca, arrivamo ad una transazione, e come conseguenza di tutto sono riuscito a recuperare circa il 70% del capitale originariamente investito. Grazie Bruno. Tra l'altro questa anche cessione dei titoli sul mercato secondario ha fatto un po' il gioco di tutti quei fondi avvoltoi che le hanno comprati in quel periodo a prezzi bassissimi, per poter magari proprio sperare in un'offerta del governo argentino che gli facesse invece straguadagnare. Pure a loro non sta andando tantissimo bene. Ma detto questo, Marco da Treviso, sento anche lei rapidamente e poi andiamo all'avvocato Fiorio. Marco. Sì, buongiorno. La mia testimonianza è molto simile all'ascoltatore precedente, nel senso che ho venduto anch'io, non fidandomi né di task force né di banche né di altro. Ho venduto i bond nel mercato a 33 centesimi nel 2001. Oggi sono passati 10 anni quasi, mi sono posizionato nel 2001 nei bellissimi BTP italiani e ho recuperato gran parte della perdita. Sì. E su solide aziende italiane come, senza fare i nomi, Eni. Sì, però Marco, ecco, però lei diciamo che ha recuperato l'investimento facendo un altro tipo di investimento, non ha fatto nessuna azione legale con le banche, non ha intrapreso un percorso che le facesse recuperare quello specifico investimento lì. Guardi, non l'ho fatto perché comunque l'altra considerazione che volevo fare è questa: a tutti quelli che hanno aderito a questa fantomatica task force argentina, bisognerebbe chiedere al signor Stock da chi è stato nominato, il suo compenso, da chi viene pagato. Vabbè. Marco, l'ho sollevato con Stock anche l'altra volta questo problema, lui già non ci sta a sentirsi descrivere come rappresentante delle banche italiane. Di fatto lo sappiamo tutti che la task force è stata istituita in seno all'ABI e che di fatto si portano avanti gli interessi dei risparmiatori che hanno fatto un investimento sottoscritto presso quegli intermediari finanziari. Marco, questa è una questione vecchia di 6 anni, tutto il rispetto che l'abbia sollevata, ma adesso non ci interessa. Ci interessa aiutare le famiglie che non sanno che pesci prendere da qui a martedì prossimo. Avvocato Fiorio, allora, da che cosa? Ah, c'è anche Paolo da Vicenza che adesso sento. Sentiamo anche Paola, poi sentiamo l'avvocato. Paola. Sì, io ho venduto di recente perché avevo aderito all'ICSIT, ma poi a questa ultima offerta ho preso spavento e insomma li ho venduti circa intorno 27-28. Ma li ha venduti sul mercato secondario oppure li ha, nel senso che ha fatto lo scambio con, il, con questo no, secondo no, scambio? No, li ho venduti sul mercato secondario. Ecco, vorrei sapere se io, se ci sono i... le premesse, posso adesso fare causa ancora alla banca. Allora Paola, questa sua domanda ci dà l'opportunità con l'avvocato di fare un po' di vademecum sui presupposti necessari per poter pensare di avere successo in un'eventuale azione legale con la banca, perché Paola non è detto che abbia la possibilità di farla, quindi ogni caso è un caso a sé. Avvocato Fiorio. Allora, iniziamo a sgomberare il campo di alcuni possibili equivoci. L'adesione all'OPS del 2005, l'adesione all'OPS del 2010 o la vendita dei titoli non pregiudicano in alcun modo l'azione legale nei confronti della banca. Possono incidere semplicemente su quello che è la, su quella che è la perdita, per cui a seguito della vendita bisognerà tener conto di quanto si è ottenuto dai titoli o a seguito dell'OPS è lo stesso discorso. Allora, detto questo, quindi chiunque può avviare un'azione nei confronti della banca. Non può solo avviarla, almeno stando alle clausole inserite nel conferimento del mandato alla Task Force Argentina, solo chi ha aderito all'arbitrato ICSID. È peraltro una clausola secondo me assolutamente illegittima, ma adesso non stiamo a parlare di questo. I presupposti per fare le cause nei confronti delle banche sono due: uno di carattere sostanziale, cioè ovvero bisogna valutare soprattutto l'adeguatezza dell'operazione, cioè ovvero se l'investitore era un soggetto che in, prima di acquistare i titoli argentini faceva degli investimenti con un rischio simile a quello delle obbligazioni argentine, che bisogna osservare che dal 1998-99 erano emesse con dei documenti di offerta nei quali si diceva che si trattava di titoli speculativi, le offering circular, sì, ad investitori in grado di sopportare rischi speciali. Se quindi c'è l'investitore, un investitore che aveva un rischio medio o medio basso, sicuramente quella era un'operazione non adeguata, quindi bisogna verificare se la banca l'ha segnalato per iscritto sull'ordine. Poi ci sono alcune violazioni di carattere strettamente formale, procedurale, deve esserci formale, un contratto quadro e ripeto, ci sono ormai tonnellate di sentenze che accertano come le modalità con le quali le banche hanno sottoscritto questi contratti non sono idonee, non, molto spesso non sono in violazione di quelle che erano le norme all'epoca applicabili. Avvocato Fiori, io non sono ritornata neanche sulla tipologia dei due titoli che adesso il governo argentino ha proposto in cambio appunto di quelli che si possiedono già. C'è un ascoltatore, Armando, che ci chiede: siamo sicuri che i titoli par o discount o PIL o i global siano già stati ammessi alla libera contrattazione? E se sì, tutti e quattro, le risulta? Allora ammessi non è possibile perché non sono stati neanche emessi, oggi non esistono questi titoli. Io posso dire due cose: la prima che sul prospetto c'è scritto che l'Argentina era intenzionata a richiedere l'ammissione dei titoli nei mercati regolamentati dell'Italia e del Lussemburgo. Però prima mi pare che Lorenzino ci abbia detto di sì. Lorenzino oggi ci ha dichiarato, le dichiarazioni di Lorenzino lascerebbero intendere che questi titoli dovrebbero essere ammessi sui mercati regolamentati. Infatti. Allora, qua, Avallone, 10 secondi di tempo, chiudo con lei oggi. Allora, il governo si dice assolutamente sicuro che raggiungeranno il tasso di adesione prefissato. Se questo non succedesse, secondo lei, che partita nuova si aprirà su questa vicenda? E quanti anni ancora dovremmo continuare a parlarne? Ma io credo che purtroppo il governo argentino, anche se non si raggiunge il 60%, andrà avanti ugualmente. Andrà avanti ugualmente, ma avrà la possibilità di tornare sui mercati internazionali, come è il loro scopo. Questo è assolutamente in dubbio, perché i mercati internazionali ormai non ce la fanno più ad ascoltare le argomentazioni. L'altra volta fu un buco soprattutto per gli italiani che in massa non hanno aderito a quell'offerta, quindi vuol dire che adesso sarebbero molto in difficoltà. Una cosa è che Devo chiudere. È molto difficoltoso diciamo così, seguire tutte i documenti che si devono firmare. Le banche naturalmente devono mettere a disposizione degli impiegati e quindi sta andando molto a rilento. Quindi secondo me si andrà a una proroga di nuovo. Addirittura apriamo questo colpo di scena. Ma guarda, averlo saputo ieri a Lorenzino glielo chiedevo direttamente se fossero stati disponibili ad una proroga proprio dei termini per le sottoscrizioni. Comunque non vorrà dire che ci dovremmo tornare ancora prima delle ferie. Buona giornata a tutti, noi ci sentiamo lunedì.